In primo piano. L'inchiesta di Trani domina i titoli. Il premier e la telefonata ai carabinieri, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, Berlusconi all'attacco del CSM. La Stampa, Napolitano, basta scontri, rispettare PM e ispettori. Poi ci sono Il Fatto, i colloqui del complotto. Il Giornale Libero mettono entrambi in evidenza una delle intercettazioni in cui Berlusconi parla di un rischio di attentato ai suoi danni. Il Giornale, Silvio, volevano uccidermi. Libero, un piano per ammazzarmi. Questi alcuni titoli. L'Unità mette invece, giocando su ovviamente la marcia su Roma, usando anche i caratteri di allora, il marcio su Roma. Cito il Sole 24 Ore, l'apertura di una importante decisione storica, banche a giudizio sui derivati, viene dal Tribunale di Milano, poi la vedremo perché, come abbiamo sentito anche in GR 24, è veramente una decisione storica, primo caso di alcune banche rinviate a giudizio, quattro banche internazionali per i cosiddetti derivati, contratti derivati al Comune di Milano. È il primo caso in Europa e negli Stati Uniti, avviene al Tribunale di Milano. Ma veniamo appunto alle intercettazioni. Questa telefonata citata dal Corriere in apertura ai carabinieri, di cosa si tratta? Andiamo subito a vedere. È un giorno di fine ottobre, tra fine ottobre e metà novembre del 2009. Berlusconi è infuriato per una puntata di Anno Zero. E che fa? Chiama il generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, per dire mi può per favore sostanzialmente risolvere il problema Santoro. Di questa telefonata, attenzione, non c'è traccia perché non è il telefono di Berlusconi quello intercettato nell'inchiesta di Trani. È quello di Giancarlo Innocenzi, cioè il membro dell'AGCOM. E allora come si può capire che Berlusconi ha telefonato a Gallitelli? Sì, desume perché il giorno dopo Berlusconi chiama Giancarlo Innocenzi e questa telefonata invece c'è agli atti e dice: ho parlato con Gallitelli per la storia dell'esposto. Va bene, ti chiamerà lui. E infatti il giorno dopo il generale Gallitelli chiama Innocenzi, anche se in realtà quello che non c'è, scrive il Corriere della Sera, è l'esposto di Gallitelli che, stando ai fatti, non esaudisce alcun desiderio del Presidente del Consiglio. Questa è la telefonata ai carabinieri di cui parla anche la Stampa, una telefonata di Berlusconi al generale di Corpo d'Armata Leonardo Gallitelli per pare risolvergli il problema Santoro. Guardate, tra Repubblica, tra il Giornale, tra l'altro due cronisti di Repubblica sarebbero indagati per l'ipotesi di fuga di notizie, insomma, per avere o comunque sarebbero stati convocati per questa mattina, questo rivela il Corriere della Sera, appunto, perché hanno rivelato le intercettazioni sui giornali. Oggi ancora Francesco Viviano, eccole qua le intercettazioni, avanti così, la RAI deve chiudere tutto, ma le trovate anche su Il Giornale, curiosamente in questa joint venture per cui Il Giornale mette le intercettazioni per dire: vedete, Berlusconi non ha fatto nulla di male. Repubblica e Il Fatto, che è il primo giornale, quello che ha fatto lo scoop qualche giorno fa su questa inchiesta, invece le mettono per dire: vedete invece che cosa Berlusconi ha compiuto di così sbagliato, insomma. Repubblica, ancora le conversazioni, Berlusconi che dice a Innocenzi: bisogna aprire il fuoco, fare tutto a tutto spiano, bisogna concertare l'azione vostra, un'azione che consenta alla RAI per dire chiudiamo tutto. Ci sono varie intercettazioni a pagina 4, ripeto, le trovate anche su Il Giornale. Il Giornale però evidenzia soprattutto quella intercettazione in cui Berlusconi parla con Innocenzi e dice così: dobbiamo avere queste fabbriche di fango, di odio? Sono dovuto stare un giorno chiuso a Palazzo Chigi, dormirci la sera perché è venuto fuori che volevano farmi un attentato accostando una macchina alla mia nel percorso da casa mia a Palazzo Chigi. Oggi Ghedini, l'avvocato di Berlusconi, ha ricevuto una cosa con 5 pallottole di cui gli dicono che lo aspetta un caricatore intero che sarà per lui, per sua moglie, sua sorella, suo figlio. Sanno dove va a scuola suo figlio, sanno dove va a giocare, gli hanno praticamente rovinato la vita. E Innocenzi che ovviamente risponde: allucinante, questo è perché caricano sempre di odio. E poi ancora Berlusconi in altre intercettazioni, sempre sul giornale a pagina 3, dice bisogna concertare questa azione. Innocenzi dice: mi sono incontrato anche con Ferri, ecco, Cosimo Ferri, membro del CSM, abbiamo messo insieme un gruppo di persone, ti abbiamo cercato appunto per dirti questo. Poi Berlusconi dice, cerca per fare pare qualche azione nei confronti di Magri, che è un membro della GCOM che in quota UDC, dice: ora parlo con Casini perché lui vuol venire con me, ha fatto una stronzata ieri, ha detto che è una porcheria quella legge lì, non ho capito a quale legge si riferisca, vabbè, comunque adesso io gli parlerò di Magri, parlerò a Casini di Magri. Le intercettazioni, insomma, sono tante, potete orientarvi come volete, potete pensarla come volete, questo è anche il tema del nostro sondaggio. C'è da dire che sul Corriere della Sera, pagina 3, il procuratore capo di Trani, Capristo, dice: ma che procura rossa? Assicuro di no, quale procura rossa, per favore, io non ci sto a questo gioco. Però chiede Giusy Fasano: ma voi siete il centro, Trani, l'epicentro del terremoto. Mi avvilisce, mi amareggia questa situazione. È stata una sciagurata fuga di notizie a complicare la situazione. Ho vissuto già in passato la pressione mediatica per altre indagini di portata nazionale. Insomma, la situazione non ci sfuggirà di mano. Sull'arrivo del ministro Alfano, gli ispettori, ha detto: il colloquio con l'ispettore è stato di una serenità e lealtà ammirevole, non voglio più sentire una parola, non voglio più sentire niente, non parlerò più. Questo è il tono dello scontro. Napolitano, come ha detto, abbiamo sentito, che tra l'altro è in visita in Siria, ha detto: vanno rispettate le indagini, vanno rispettate le ispezioni. Per Berlusconi è un punto, insomma, a suo favore, un Quirinale che interviene in qualche modo per fermare il CSM. Lo scontro istituzionale è altissimo. Per quel che riguarda gli ispettori, Guido Ruotolo sulla Stampa rivela che il rapporto non è stato ancora scritto, gli ispettori mandati da Alfano a Trani, ma se si potesse leggere il rapporto finale si leggerebbe questo titolo: Trani, tutto in regola. Si può discutere sull'opportunità delle indagini, sulla contestazione dei reati di concussione e minaccia a un corpo dello Stato, sul coinvolgimento del direttore del TG1, della GCOM, si può discutere di tutto, ma che le norme e le procedure siano state rispettate, questo secondo Guido Ruotolo, che anticiperebbe il rapporto degli ispettori mandati da Alfano, questo si può dire di sì, cioè non si può dire che ci sia stata alcuna violazione delle regole. C'è una grande polemica su il ruolo di Mauro Masi, vale a dire il direttore generale della RAI, per il Messaggero, ma ovunque troviamo Masi deve dimettersi, il CDA si spacca. Io faccio una sintesi perché ci sono decine di articoli e commenti, poi ne parleremo alle 8.30. Segnalo anche Giuliano Ferrara oggi, col suo classico elefantino, firma in prima pagina. Cosa fa? Prende le difese di Gianni Letta. Il titolo è La diffamazione, il commento di Giuliano Ferrara. Perché? Gianni Letta al telefono non delinque, mormora cose incomprensibili, dice che proverà a cercare, ma Repubblica lo sbatte in titoli mozzorecchi come se avesse stuprato una tigre siberiana al parco. Effettivamente, dice, è la seconda volta che Repubblica attacca Letta, dice Ferrara. Prima aveva scritto appalti la rete di Letta sulla vicenda del G8. Ora dice Rai nelle telefonate spunta Letta, questo era il titolo di apertura di Repubblica di ieri, ma scrive Mauro, scrive Giuliano Ferrara, le risposte di Letta a Innocenzi sono le prime due grugniti indecifrabili, probabilmente un che due palle. Poi scatta il criminalissimo proverò a cercarlo, cioè proverò a cercare il direttore, il presidente della GCOM, Calabrò. Non lo cercherò, che già non sarebbe un ergastolo, ma un proverò a cercarlo, che per chi conosca il linguaggio di Letta vuol dire chiaramente non mi rompere più con questa storia. Il titolo di Repubblica avrebbe dovuto essere, insomma, Eletta scansò il problema Innocenzi, invece è Rai nelle telefonate spunta Letta. E tra l'altro sotto c'è un commento, Giuliano Ferrara dice: sotto vi spieghiamo secondo noi qual è la strategia, una strategia perché proprio Letta è sotto attacco, perché Repubblica vuole travolgere l'uomo di ogni mediazione. C'entra qualcosa Carlo De Benedetti, si chiede Ferrara, Secondo lui c'entra perché Carlo De Benedetti dice Ferrara sarebbe in una partita un po' più ampia, tra i maliziosi dei ben informati si sussurra di delusioni per via di permessi negati per attività imprenditoriali, si parla della partita intorno ai vertici delle generali, si segnala come tanto abbia influito l'approdo di Paolo Garimberti, ex giornalista di Repubblica, a presidenza della RAI, sullo sfondo ci sarebbe il risico delle generali con il possibile arrivo della presidenza di Cesare Geronzi, insomma lo scenario, secondo Ferrara, è molto più ampio del perché Repubblica attacca in particolare Gianni Letta. Voglio segnalare, è una cosa che dà solo Italia Oggi, il fatto che intanto Silvio Berlusconi potrebbe essere interpretato da Alain Delon. Alain Delon nel ruolo di Berlusconi, questo anticipa Italia Oggi in che tipo di film? Il film basato sulla storia del libro Gradisca Presidente, scritto da Patrizia Daddario. La Patrizia Daddario ovviamente reciterà se stessa e Alain Delon pare, per un compenso di 2 milioni di euro, questo scrive Italia Oggi, interpreterà, dopo un lungo tira e molla ha deciso di sì, sarà il volto di Silvio Berlusconi nel film Gradisca Presidente, per la regia di Dario Cioni. Questo chissà, dice Italia Oggi, come la prenderà Berlusconi, il fatto che Alain Delon potrebbe interpretare lui. Di politica, come avete sentito, si parla pochissimo. C'è solo oggi un editoriale di Vittorio Feltri in prima pagina che dice attenzione, perché non dispongo di sondaggi, ma temo che l'elettorato del centrodestra abbia la tentazione di disertare i seggi, di imbucare scheda bianca o di rottare il voto sulla Lega. Questo è il punto. Il non voto, dice Feltri, è un voto per chi ha impedito al governo Berlusconi con mezzucce e colpi bassi di essere all'altezza delle aspettative popolari. E dunque dice Feltri sostanzialmente o Silvio o il diluvio, non c'è alternativa. Questo è il timore un po' dell'astensionismo anche per l'Unità, pagina 12, teme l'astensione e Berlusconi, c'è una foto di Berlusconi, e prepara un colpo ad effetto sulle tasse. Questo è, secondo l'Unità, il timore di Berlusconi, cioè che queste inchieste, queste polemiche, queste intercettazioni possono creare una disaffezione nel proprio elettorato e dunque portare all'astensione. Scrive l'Unità: Berlusconi prepara il colpo ad effetto sulle tasse, questo lo abbiamo già anticipato ieri, lo diceva anche La Stampa, è addirittura il titolo d'apertura del Riformista. Giulio taglia le ali a Silvio, il premier voleva un segnale forte sul fronte fiscale per il rush finale della campagna elettorale, ma ha dovuto incassare il no del ministro dell'economia, che anzi ha allo studio una manovrina. Questo mi dà spunto per passare al Sole 24 Ore, perché ieri appunto Tremonti ha parlato alla Camera. Niente tasse su casa e risparmio, si legge a pagina 3 nell'articolo di Isabella Bufacchi, non metteremo imposte patrimoniali, non colpiremo il risparmio e la casa, non segheremo i rami dell'albero su cui stanno la nostra economia, la nostra società, le nostre famiglie. Così è iniziato il percorso della riforma fiscale sulla quale sta lavorando il governo, ha detto il ministro Tremonti ieri alla Camera, che però... Ecco qui insomma la frenata. Prima di parlare di riforma fiscale in pubblico abbiamo avviato in parallelo al federalismo fiscale uno studio tecnico e dunque quello che si diceva ieri insomma sulla riforma fiscale, secondo le anticipazioni, ieri lo diceva La Stampa, Berlusconi vorrebbe in qualche modo annunciare qualcosa per un colpo in vista della chiusura della campagna elettorale, un Tremonti che frenerebbe perché non ci sono i soldi. Tremonti ieri ha ribadito: il governo ha coraggio ma non incoscienza, prima di elencare i provvedimenti già presi nei primi 22 mesi di governo. Banche a giudizio sui derivati è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. In prima pagina di Finanze e Mercati si spiega di cosa si tratta, lo fa Sara Monaci. La sentenza è per Deutsche Bank, Deffa Bank, UBS e JP Morgan, che non arriva inaspettata, ma è destinata sicuramente a fare storia. È una decisione unica del suo genere, perché il GUP di Milano, l'UERTI, ha rinviato a giudizio i 4 istituti di credito, 13 gli imputati coinvolti nella vicenda dei derivati del Comune di Milano. L'accusa per tutti è di truffa aggravata ai danni di Palazzo Marino, vale a dire del Comune. Una vicenda che risale al 2005, durante il mandato Albertini, quando Palazzo Marino insieme all'emissione di un'obbligazione di 1,68 miliardi, sottoscrisse con queste banche appunto uno swap sul tasso di interesse. Secondo l'accusa, l'amministrazione di Milano si è accollata 70 milioni di commissioni occulte, considerando sia i costi della chiusura di un derivato precedente, sia i costi dell'apertura dei nuovi swap. Per gli inquirenti, a permettere i profitti illeciti o comunque non trasparenti sarebbero stati 11 funzionari delle quattro banche, due manager di Palazzo Marino, l'ex direttore generale Giorgio Porta e l'ex consulente del settore finanziario Mauro Mauri. Dunque questi vanno a giudizio. Anche Gianni Trovati scrive: un'azione pilota destinata a fare scuola, perché ci sono già filoni di indagine uguali da Verona, Messina, da Torino alla Calabria, di swap sottoscritti da sindaci, presidenti di provincia, presidenti di regione, che ovviamente comuni anche che sono andati alcuni al dissesto finanziario per questi derivati, contratti che poi si sono rivelati invece che un trionfo, una sciagura dal punto di vista finanziario, e ora le inchieste sono aperte. Allora, trovate molto ancora di cronaca nera, c'è tutta la vicenda di Stefano Cucchi, c'è la vicenda di questa ragazza Elisa Claps, come detto scomparsa, la trovate su tutti i giornali, scomparsa nel 93, ritrovata forse, ma ci vorrà l'esame del DNA, dietro murata all'interno di una chiesa a Potenza, e ovviamente si torna a indagare sulla persona che già era stata indagata. La vicenda incredibile di questa di Genova, ieri anticipata al secolo XIX, di questo bambino trovato morto e con la madre e il compagno nella casa, tra l'altro drogati, e avevano sniffato tutta notte. Ora uno accusa l'altro dicendo è stato lui e lui dice no, è stata lei. Io però voglio andare alla citazione di questo articolo di Gian Antonio Stella. È in prima pagina del Corriere della Sera, una vicenda incredibile, dice vergognatevi e finisce sotto processo. È la vicenda di una signora, Ada Stefan, che è andata al Consiglio Comunale di Vittorio Veneto e si è spericolatamente spinta a contestare una decisione urbanistica della giunta comunale leghista, urlando in pieno Consiglio Comunale, alzandosi in piedi, vergognatevi. Un'offesa gravissima, secondo Mario Rosset, il segretario, già segretario e consigliere della Lega, che l'ha fatta denunciare, o meglio, al punto di meritare una denuncia. Incredibilmente si è emanato un decreto penale che condannava la signora per aver offeso l'onore e il prestigio comunale di Vittorio Veneto. Ada Stefan, questa signora, ha detto: ma siete impazziti, non ha accettato, è andata a processo aperto e chiuso giorni fa nel giro di pochi minuti. Per il giudice Mascolo la signora andava assolta, tutto finito, ma che tre giorni dopo un sostituto procuratore, Giovanni Cicero, impugnava la soluzione, il processo andrà avanti, la signora Stefan, secondo lui, va castigata. La condanna beffa nel paese degli insulti. Gian Antonio Stella dice: scusate, ma questo è il paese in cui Maroni spiegò che Bossi ce l'ha duro, Berlusconi ce l'ha d'oro, Fini ce l'ha nero e Occhetto ce l'ha in censura. Il leghista Enrico Cavaliere disse: c'è puzza di merda qui alla Camera. E Massimo D'Alema disse a Carlo Ripa di Meana: lei dice solo cazzate. Romano Prodi disse a Enrico La Loggia durante un dibattito parlamentare: ma vaffan, con tanto di La Loggia che fece un'interrogazione parlamentare chiedendo risponde al vero che lei mi ha mandato fanculo. E poi così via. Di Pietro che dice di Berlusconi, col massimo rispetto, è un delinquente, e dice Minzolini fuori a calci in culo. E poi ricordiamo Barbato e Nino Strano il giorno della caduta di Prodi: pezzo di merda, traditore, cornuto, frocio, sei una checca squallida. Ebbene, tutto questo, dice Gian Antonio Stella, in questo paese la signora Ada Stefan, che si è alzata nel Consiglio Comunale a dire vergognatevi, andrà a processo. Dice sempre a Treviso, in provincia di Treviso, dove il leghista Gentilini ordinava la pulizia etnica contro i culattoni, dove Pier Giorgio Stiffoni diceva agli immigrati: peccato che il forno crematorio del cimitero di Santa Bona non sia ancora pronto, dove il consigliere comunale leghista Fanton ha teorizzato che gli immigrati sono animali da tenere in un ghetto chiuso con la sbarra e lasciare che si ammazzino tra loro. Ebbene, scrive Gian Antonio Stella, sarebbe un reato dire vergognatevi? Messa così, lo diciamo anche noi. Vergognatevi. Con questo chiudo. C'è chi dice che stiamo messi male in Italia e qualcuno ha detto anche in Zimbabwe, in Sudafrica invece vicino allo Zimbabwe, vi segnalo, lo scrive sia il Corriere della Sera che Libero, il presidente Zuma ha raddoppiato il budget per le First Lady e per forza, perché lì sono diventate First Ladies. Zuma è poligamo, ha 3 mogli e dunque grande scandalo perché ha raddoppiato il budget per le mogli. Prima erano solo una, adesso col precedente presidente lui ne ha 3 e quindi costano di più.